355. Lesso rifatto. Talvolta, per mangiare il lesso più volentieri, si usa rifarlo in umido, ma allora aspettate di avere un tocco di carne corto e grosso, del peso non minore di mezzo chilogrammo. Levatelo dal brodo avanti che sia cotto del tutto e mettetelo in cacciaruola sopra un battuto di carne secca, cipolla, sedano, carota e un pezzetto di burro, condendolo con sale, pepe e spezie. Quando il battuto sarà strutto, tirate la carne a cottura con sugo di pomodoro o conserva sciolta nel brodo. Passate l'intinto, digrossatelo e rimettetelo al fuoco col pezzo della carne e con un pugnello di funghi secchi rammolliti.